sole appostati ci colpiscono. Provare l'emozione di una vita estranea. Se tutto fosse stato diverso, se io fossi stato diverso, in un mare senza gabbiani. L'erba come capelli inizia la tua danza, la selva i nostri piedi racchiude i nostri segreti, avanza. Ci sentiamo filosofi della vita, ci sentiamo bene a pisciare sulla natura. Tutte le valigie dimenticate, granate inesplose dei nostri ricordi. Chi vogliamo ingannare coi nostri silenzi? Chi vogliamo ingannare coi nostri silenzi? Non c'è da rabbrutare glaciazioni della mente. Gli sbadigli mi mangiano lo stomaco. Gli sbadigli mi mangiano lo stomaco. E non ho più voglia di dormire. Voglia di dormire.